GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Udine sul podio dell'indagine del Sole 24 Ore che misura la qualità della vita nelle città, seguita da Bologna e da Trento. Trieste scende al 12° posto, Pordenone al 14°, 28° Gorizia. La frana che ha interrotto il collegamento con l'Austria sulla statale 52 bis Carnica per il geologo Mocchiutti è la più grande mai vista in regione. Ancora un'aggressione ai danni degli operatori sanitari, accaduto ieri sera al pronto soccorso di Pordenone. Sono già oltre 500 i casi in regione. Continua a far discutere il trasferimento dell'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste al futuro polo di Cattinara. Dopo la petizione proposta dal coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara, ora si muove anche la politica. Il riscaldamento globale è certamente causa dell'uso massiccio di carburanti fossili, parola di scienziati. Abbiamo intervistato la glaciologa dell'OGS che interverrà alla conferenza internazionale in corso a Dubai, dove la regione ha presentato le sue politiche ambientali, idrogeno e cooperazione, le chiavi per un Friuli Venezia Giulia green. È morto la notte scorsa Don Bruno Cescon, 75 anni, per 20 anni direttore de Il Popolo, il settimanale della diocesi di Concordia Pordenone. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Francesca Terranova e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Dunque, la provincia di Udine è sul podio, al primo posto della graduatoria del Sole 24 Ore per la qualità della vita. Il capoluogo friulano guadagna 11 posizioni, ne perde 5 invece Trieste, che alcuni anni fa era in testa alla classifica. Pordenone migliora piazzandosi al 14° posto, perde posizioni anche Gorizia, che arriva al 28° posto. Un balzo in avanti di 11 posizioni e Udine va al comando della classifica delle province in cui si vive meglio in Italia, secondo l'indagine pubblicata a fine anno dal Sole 24 Ore. 90 indicatori divisi in 6 categorie raccontano la scalata di Udine capace di soppiantare per vivibilità Bologna prima lo scorso anno e superare anche Trento. A fare la differenza quest'anno sono il primo posto assoluto tra 107 province nell'indice sintetico della qualità della vita delle donne e l'ottavo posto in quella dei bambini. C'è anche un buon servizio per le giovani mamme, nel senso che ci sono diversi asili nido, non so se bastano alla richiesta. In regione Trieste perde 5 posizioni e scende al 12° posto, ma è sempre ai vertici per cultura e tempo libero, prima per patrimonio museale e per indice di lettura, seconda per sportività e in negativo per solitudine, con 49 persone che vivono sole su 100 nuclei. Due posizioni dietro e in ascesa Pordenone, il territorio in cui si rubano meno auto in Italia. Gorizia è 28°, perde 9 posizioni ma primeggia nell'offerta di spettacoli e i due territori sono accomunati in ambito sanitario dalla bassissima disponibilità di posti letto per specialità ad elevata assistenza. Il territorio di Udine detiene un altro primato in Italia. I suoi poco meno di 517.000 abitanti possono usare un numero record di palestre, piscine e centri per il benessere fisico. Gli indicatori relativi a cultura e tempo libero migliorano e la piazzano al 5° posto in Italia, così come quelli relativi all'ambiente e ai servizi, dove avanza di ben 25 posizioni. C'è tanto questo rapporto con la natura che magari appunto in città o in altre regioni si è un po' perso. Udine si distingue con un 4° posto anche per giustizia e sicurezza. L'indice di criminalità è relativamente basso, il miglioramento più evidente, 43 posizioni scalate nell'ambito affari e lavoro, dove spicca il dato delle poche imprese in fallimento. Quanto a ricchezza e consumi, poche le famiglie con ISEE basso e i redditi di cittadinanza. Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Oggi vince Udine e il Friuli, in quanto Udine come capitale del Friuli è la sua rappresentante, ma come abbiamo detto in realtà è un premio al territorio. Non a caso abbiamo utilizzato come motto per Friuli Doc una città, un territorio. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora torniamo sulla frana che ha distrutto 5 tornanti sulla strada che da Paluzza conduce al passo di Monte Croce Carnico, oggi un sopralluogo dell'ANAS, ma intanto dalle immagini effettuate con il drone le dimensioni appaiono molto più grandi del previsto. Ha un colore più chiaro la parte della roccia da cui si è staccata la grande frana di venerdì sul Pal Piccolo, una zona frequentata dagli amanti delle arrampicate. Lo mostrano le riprese col drone fatte dal geologo Andrea Mocchiutti nel primo sopralluogo di ieri per conto dell'ANAS, gestore della strada del passo Monte Croce Carnico, chiusa perché travolta dal cedimento. È la più grande frana di roccia che Mocchiutti abbia mai visto in Friuli Venezia Giulia. Si è staccata una superficie di 50 metri per 50 con uno spessore di 10, un volume stimato attorno ai 40.000 metri cubi, cambiando di fatto il versante. Nuovi distacchi sono possibili anche a breve, aggiunge Mocchiutti, ci sono fratture aperte, decine di metri cubi possono ancora staccarsi. Massi detriti hanno coinvolto diversi tornanti dal dodicesimo al terzo, alcuni sono finiti nel torrente Butte, centinaia di metri a valle. Per la messa in sicurezza si parla di mesi, nella migliore delle ipotesi, anche con possibili esplosioni controllate in parete. Nel frattempo si torna a ragionare su un percorso alternativo, una variante o un tunnel. La discussione anima non solo la politica italiana ma anche quella carenziana. Il Partito Popolare di Kötschach-Mauten, la località più vicina a Timau, è tornato a chiedere una soluzione caldeggiata da decenni. In Carinzia i popolari sono al governo in coalizione con i socialisti, che esprimono la maggioranza relativa, e il governatore Peter Kaiser. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, nuvoloso sui monti. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 6 gradi e 5 decimi, a Udine e Gorizia 3 gradi, a Pordenone 2, a Tolmezzo meno 1 grado e 5 decimi, a Forni di Sopra meno 3, a Piancavallo e Tarvisio meno 4, a Sappada meno 6 e 5, sul Monte Lussari meno 5, sul Monte Zoncolan meno 6, a Lignano 3 gradi e 5 decimi, a Grado 3. Le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia: dal pomeriggio avremo cielo in prevalenza nuvoloso, domani piove in pianura, più abbondantemente sulla costa, sui monti deboli nevicate oltre i 500 metri, ma al mattino la quota neve potrebbe essere più bassa. Ancora un'aggressione ai danni di operatori sanitari, accaduto ieri sera al pronto soccorso di Pordenone. Ancora un'aggressione al personale sanitario, avvenuto questa volta a Pordenone, pronto soccorso. Luciano Clarizia è presidente dell'Ordine degli Infermieri provinciale e regionale. Una persona armata di coltello e con un bastone si è infilata all'interno del pronto soccorso nella sala d'attesa e ha iniziato a inveire contro il personale sanitario, dicendo che chiunque si fosse avvicinato l'avrebbe accoltellato, l'avrebbe baciato. Per fortuna la persona, insomma, conosciuta nell'ambiente sanitario, ha fatto piacere e di conseguenza, insomma, sono riusciti a tranquillizzarla anche con l'arrivo della polizia, e così, insomma, la situazione è sfociata e si è tranquillizzata. Però ancora l'ennesimo caso che mette in evidenza quanto sia pericoloso purtroppo oggi lavorare in un pronto soccorso, in particolare per gli infermieri, per i medici e per tutti gli operatori sanitari. Qual è il quadro più in generale e quali sono le possibili soluzioni? Ma il quadro è sempre drammatico, perché ormai abbiamo il 40% dei infermieri che sono il numero più alto di personale che è aggredito. Cosa si può fare? Avere sicuramente nel breve termine un punto H24 di polizia nei pronto soccorsi, almeno per tentare di bloccare queste aggressioni, sono maggiormente presenti, e poi ragionare su un discorso un po' più ampio nel dare servizi esterni per evitare, insomma, che chi non deve arrivare in pronto soccorso sia gestito in qualche modo e abbia risposte sul territorio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Continua a far discutere il trasferimento dell'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste al futuro polo di Cattinara. E mentre si stanno muovendo i consiglieri regionali, la petizione del coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta ha superato le 10.000 firme. Il progetto del trasferimento dell'ospedale infantile Burlo Garofolo al polo di Cattinara va aggiornato perché non corrisponde alle esigenze migliorative delle attività di cura e ricerca espresse dal personale medico e sanitario. A dirlo il consigliere regionale del PD, Roberto Cosolini, che ha voluto chiarire alla stampa che la richiesta di revisione del progetto originale è già approdata in terza commissione che si occupa dei temi della sanità il 19 maggio 2022, trovando l'assenso dell'assessore regionale alla salute Riccardi a rivedere il progetto alla luce delle proposte espresse dagli operatori sanitari. La consultazione è stata effettuata, ma da allora, ha spiegato Cosolini, la terza commissione non è ancora stata convocata per riferire sullo stato di avanzamento del progetto. Intanto i lavori stanno andando avanti e bisognerà anche capire se le eventuali modifiche saranno giuridicamente compatibili con l'appalto esistente. Nel frattempo, oltre 10.000 cittadini hanno firmato la petizione proposta dal coordinatore inquinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara, in cui si chiede di preservare nel comprensorio ospedaliero triestino di Cattinara gli alberi della Pineta. Anche la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, Giulia Massolino, ha annunciato che presenterà assieme a Simona Liguori una mozione in cui chiederà di ridiscutere il progetto ormai vecchio e inadeguato, perché non corrisponderebbe alle necessità dell'ospedale materno-infantile. Secondo la Massolino, la struttura in via dell'Istria dovrebbe essere mantenuta e bisognerebbe trovare soluzioni alternative all'abbattimento della Pineta di Cattinara. Trieste, Vaciucci, GR Friuli Venezia Giulia. Promette di essere un incontro molto partecipato quello di questo pomeriggio a Trieste per la difesa della sanità pubblica. Il dibattito, aperto a tutti, sarà ospitato alle 17 dalla comunità religiosa serbo-ortodossa. I promotori dell'iniziativa, lo psichiatra Beppe Dell'Acqua e Maria Grazia Cogliati, e del Comitato per la Salute Pubblica, si raccolgono anche le firme per la proposta di legge finanziaria regionale 2024 che chiede di aumentare la spesa per la sanità. Le firme saranno presentate al Presidente del Consiglio regionale mercoledì con una manifestazione in Piazza Overdan. Noi come coordinamento triestino avevamo raccolto ancora l'inverno scorso 10.000 firme, le abbiamo portate alla Presidenza della Regione, non sono mai state accolte, noi non siamo mai stati ricevuti. Questa adesso è una raccolta di firme regionale, aperta solo alle associazioni. Noi la porteremo in Consiglio regionale mercoledì, con la speranza questa volta di essere ricevuti da qualcuno, e alle 11.30 faremo una conferenza stampa sotto la Regione. Quali sono le aree dove voi avete rilevato una carenza maggiore? Per quanto riguarda Asuggi, noi brilliamo per abbandoni del pronto soccorso, quindi vuol dire che i tempi di attesa sono oltre ogni misura. Abbiamo aumentato moltissimo il costo medio del DRG per ogni punto, quindi vuol dire che il costo diagnostico di ricovero o meno è veramente molto alto. Sono aumentati le degenze nei reparti medici e le degenze nei reparti chirurgici come tempi proprio di ricovero, il che vuol dire che purtroppo il territorio, così come stiamo denunciando da 2 anni, si è fortemente impoverito e non riesce a ridurre la lunghezza del ricovero, assumendosi per tempo la responsabilità di un invio a domicilio. Ci sarà una differenziazione tra una medicina, una salute per le persone più abbienti e una medicina, una salute per le persone che non hanno nulla, che saranno di nuovo abbandonate perché non c'è più quell'integrazione tra sanitario e sociale e tra tutte le componenti sanitarie del territorio. E domani è previsto uno sciopero nazionale di medici, infermieri, ostetriche e dirigenti sanitari in difesa del servizio sanitario. A indire la mobilitazione i sindacati Anao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing Up. Dopo l'ennesima manovra economica che ignora le esigenze dei professionisti della salute, mette in discussione i loro diritti acquisiti e dimentica le necessità della salute pubblica. È giunta l'ora di scioperare, si legge in una nota dei sindacati, perché le pensioni presenti e future non siano tagliate per un piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri e per un aumento degli stipendi nel comparto. È stata definita la violenza ostetrica, ovvero il trattamento fisico e verbale non rispettoso subito dalle partorienti nelle strutture sanitarie. È un tema anche di un progetto internazionale quadriennale vinto e coordinato dall'Università di Udine e finanziato con 598.000 euro dall'Unione Europea. Campo d'azione della ricerca sarà l'Europa e l'America Latina. L'Ateneo Friulano guiderà un partenariato di 19 istituzioni di 9 paesi, 6 europei e 3 latinoamericani. Responsabile scientifica della ricerca Patrizia Quattrocchi, docente del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, esperta di antropologia medica. Da anni Quattrocchi studia le politiche del parto e della nascita in vari contesti e guiderà un team, tra cui composto da ricercatrici e docenti, professionisti della salute e membri di organizzazioni civili. Il principale obiettivo dell'iniziativa è quello di realizzare una piattaforma digitale internazionale, interdisciplinare e intersettoriale, uno strumento che connetta ricerca, formazione innovativa dei professionisti della salute e politiche pubbliche attente alla prospettiva delle donne e della società civile. una cooperazione internazionale molto serrata ed una differenziazione degli approvvigionamenti energetici rappresentano il doppio binario sul quale si sta muovendo il Friuli Venezia Giulia per dare concretezza ad un piano che da un lato incrementi la forza delle politiche ambientali con ricadute positive anche da noi e dall'altra allarghi le fonti energetiche green per non essere ostaggio degli shock derivanti da eventi internazionali e accelerare il processo di decarbonizzazione. Lo ha detto l'assessore per la difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, nel corso del suo intervento al panel organizzato dalla regione Lombardia a Dubai nell'ambito delle iniziative in programma alla COP28, la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, quest'anno ospitata negli Emirati Arabi Uniti fino al 12 dicembre. E a dare un contributo importante ai negoziati, la ricercatrice dell'OGS Florence Colleoni, glaciologa in partenza proprio alla volta degli Emirati Arabi. L'abbiamo intervistata. Come si fa a puntare il dito sui carburanti fossili responsabili del riscaldamento globale e quindi poi trovare delle soluzioni per rimediare a questo riscaldamento globale proprio andando nella patria dell'oro nero? Lei riuscirà a essere diretta? In quanto climatologi vediamo assolutamente l'impatto di questi gas serra dovuti proprio alle nostre emissioni per l'utilizzo delle energie fossili e quindi diciamo noi sono decadi ormai ma sempre di più con tutti gli eventi estremi che accadono e poi comunque le osservazioni che noi accumuliamo. Vediamo comunque l'impatto di queste cose, le misuriamo ormai, le quantifichiamo, ormai non c'è più veramente dubbio su quello che noi stiamo facendo, quindi da quel punto di vista la scienza ormai è proprio molto diretta. È vero che gli Emirati Arabi sono molto avanti nella ricerca delle risorse alternative di energia pulita? Paradossalmente un po' come per esempio l'India o la Cina, che sono diciamo paesi in cui c'è l'inquinamento estremamente elevato, sono anche paesi che investono moltissimo nello sviluppo di queste risorse durabili. E sarà anche coinvolta nei prossimi giorni in attività, credo divulgative, al padiglione della criosfera. Ci fa qualche esempio di queste attività? Noi diciamo proviamo a spalmare tutti i componenti della criosfera, quindi la cosa che facciamo di solito è fare dei piccoli workshop, delle piccole presentazioni in cui comunque le persone che vengono ad ascoltare sono partecipe, quindi in questi giorni il focus è molto sullo scioglimento delle calotte polari, quindi la Groenlandia, l'Antartide e la conseguenza sull'innalzamento del livello del mare. Poi nei prossimi giorni il focus sarà molto di più sullo scioglimento del permafrost, della copertura di neve e anche dei piccoli ghiacciai di montagna in pratica. Quindi durante le due settimane della COP di solito cerchiamo di spalmare un po' tutte le componenti che intervengono direttamente nelle zone polari e le zone di montagna in modo che la gente abbia le ultime scoperte, gli ultimi risultati, le ultime novità in termini di processi scientifici. Noi trasmettiamo e poi a volte veniamo pure chiamati da rappresentanti governativi specifici che comunque sono in giro nella zona degli osservatori, dei scienziati, in cerca di comprensione, informazioni per discutere i loro piani di adattamento. Enner Project, l'azienda triestina che ha sviluppato un importante progetto di efficienza energetica per l'oleodotto Siot Tal, ha stretto un accordo con il gruppo Elevion. Con questa partnership Elevion avrà il 70% dell'iniziativa consistente nella costruzione e gestione di 7 nuove unità di cogenerazione ad alta efficienza collocate nelle stazioni dell'oleodotto in Friuli Venezia Giulia. Queste unità di cogenerazione produrranno energia elettrica per alimentare le pompe che movimentano il petrolio attraverso le Alpi. Il calore prodotto sarà utilizzato per riscaldare il greggio e ridurne la viscosità, facilitandone così lo spostamento lungo la condotta, consentendo minori consumi e maggiori capacità di trasporto. In molti paesi europei e già nei programmi scolastici, in Italia se ne sta discutendo in questi giorni dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. Stiamo parlando dell'educazione affettiva, un tema su cui l'AIED si batte da anni. Ne abbiamo parlato questa mattina nella nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Regione. La tragedia di Giulia Cecchettin e le decine di donne vittime ogni anno di partner o ex partner ha risollevato la questione dell'educazione sessuale e affettiva a scuola, un tema su cui AIED, l'Associazione per l'Educazione Demografica, si batte da decenni. Ci sono state proposte di legge, addirittura un simposio ministeriale che ha partorito anni fa linee guida per portarlo nelle scuole di tutti i gradi con una regolamentazione e paletti precisi, tutto lasciato cadere poi nel dimenticatoio. Mario Pugliatti, presidente AIED. La politica intanto non è assolutamente d'accordo nel parlare di sessualità. la formazione, chi la farà, come si farà, eccetera, è una cosa che deciderà il governo, non lo dobbiamo decidere noi. Noi abbiamo promosso una petizione firmata dalla Federazione Sessuologia Scientifica, che in Italia raggruppa tutte le scuole di sessuologia, perché questo documento esca dai cassetti e ci venga data attuazione. Nel frattempo le associazioni fanno quello che possono tra incontri classici e app per aiutare gli adolescenti a conoscere temi come la prevenzione delle malattie sessuali, la contraccezione, ma anche il rispetto e consenso. L'obiettivo è quello di prendere spunto dai paesi del Nord Europa. Nella stragrande maggioranza dei paesi europei i corsi sono corsi curriculari, ossia fanno parte delle materie scolastiche. In Svezia questa materia si insegna dal 1955. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È morto la notte scorsa Don Bruno Cescone, 75 anni, per 20 anni direttore de Il Popolo, il settimanale della diocesi di Concordia Pordenone. Da tempo malato di Parkinson, si è aggravato improvvisamente. Si è spenta una mente vivace, curiosa e sapiente, un cuore generoso e pronto ad aiutare nell'ombra, uno sguardo attento ai cambiamenti del mondo. Il ricordo dei colleghi giornalisti del settimanale. Originario di Fossalta Maggiore di Chiariano, provincia di Treviso, laureato in teologia e pedagogia, giornalista noto a livello nazionale, si era formato al Gazzettino di Giorgio Lago. Dal 96 al 2016 è stato il direttore del Popolo. Con lui erano arrivate al giornale le innovazioni tecnologiche, il formato tabloid e il primo sito internet. Lo sport, calcio, torniamo sul pareggio beffa dell'Udinese contro il Verona. Beffa perché i bianconeri sono stati raggiunti da un gol di Henry al 97esimo minuto di gioco, inutili la doppietta di Lucca e la rete iniziale di Cabasele. Dopo questo 3-3 la squadra di mister Cioffi è dunque ancora in piena lotta salvezza. 9 significa maglia da bomber, ma anche pareggi da record. Nessuno come l'Udinese in Italia e nei maggiori campionati europei. L'ultimo contro l'Hellas, confezionato da gol fuori dal tempo. Quello di Ngonghè, perché sforbiciate come quella del 23enne giocatore belga se ne vedono poche. E quello di Henry, perché è arrivato nei 20 secondi di extra recupero che fanno arrabbiare il club friulano. Vittoria casalinga che non arriva perché Silvestri alla fine sbaglia l'uscita. Colpa dei crampi dovuti, forse, lo dice il tecnico dei bianconeri, all'emotività, troppe variabili in una corsa a salvezza. Sentiamo Gabriele Cioffi. Chi parla di sfortuna secondo me è un perdente, quindi noi non abbiamo parlato di sfortuna. Se voglio essere proprio cattivo con i ragazzi, posso trovare 7-8 minuti dopo il 2-0 dove abbiamo smesso di gestire la partita come avevamo preparato, cadendo in quello che è la caratteristica principale del Verona. Avanti dietro, rompere le linee di aggressione con la palla sulla prima punta. Ancora un pareggio in uno scontro diretto è quello che sta facendo la differenza nel campionato dell'Udinese. La zona retrocessione ora è distante 2 punti, un passo più lontano rispetto al turno precedente. Non so se è del Verona, ma il nostro sì, e questo vuol dire che questo centimetro ci farà tirare fuori da questo spettro dietro. O magari ci farà avvicinare a qualche posizione di classifica sopra. Di sicuro quello che io non voglio è che si guardi dove non si deve andare. Noi bisogna guardare dove si vuole andare. La prossima, sabato a San Siro contro l'Inter, ricordando, necessario farlo, l'impresa di un mese fa contro il Milan. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E torniamo a parlare della vittoria in trasferta della Pallacanestro Trieste, che domina la partita contro Orzi Nuovi, centrato il 6° successo di fila con la conferma del 2° posto in classifica, la carica con Ruzier e Vildera. Quando il divario tecnico è così alto è difficile riuscire a valutare. Trieste passeggia, Orzi Nuovi infila la 6ª vittoria consecutiva e mantiene il 2° posto assieme a Udine e Forlì. Nel capannone della provincia bresciana non c'è proprio partita. I biancorossi, cui 2 migliori giocatori guadagnano quanto l'intera squadra avversaria, partono forte approfittando di un Agri Bertocchi che non vince da 1 mese e mezzo e che ha perso in settimana il suo miglior giocatore, Mayfield, fatto fuori per interferanze. Stavolta è Ruzier a ergersi a protagonista, il playmaker in crescita nelle ultime settimane, da quando a furor di popolo Brooks è stato spostato in guardia, segna nel primo tempo 5 triple su altrettanti tentativi, una rarità per un giocatore fermo a 2 su 11 nelle ultime 5 partite. Chiuderà a quota 17, miglior prestazione realizzativa dell'anno, con Candus in difficoltà per falli e Vildera a spalleggiare il play triestino. 15 punti e 14 rimbalzi per il lungo di riserva, impiegato ben 32 minuti. La resistenza orceana è tutta sulle spalle di Grant Basile, italoamericano arrivato in settimana in prestito da Tortona, si dimostra l'unico giocatore a reggere il confronto. Avanti di 13 già a fine primo quarto e di 20 a riposo lungo, la squadra di Christian mette in chiaro con Filloi e Brooks che non ci saranno sorprese già nei minuti iniziali del terzo periodo, anche perché la zona iperconservativa della squadra di casa mal si sposa con le qualità balistiche dei biancorossi. Finale di 69-87, ora Trieste riposerà nell'infrasettimanale per il rinvio della sfida interna con Chiusi, prevista inizialmente per mercoledì e spostata a fine gennaio per l'indisponibilità di un vice allenatore avversario. Ad ospitare Orzinuovi invece sarà Cividale, in una sfida che già sa di scontro salvezza, mentre Udine andrà a Piacenza per cercare di confermare il buon momento. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Eugenio Giuffrida e Mauro Cumin. Da parte di Francesca Terranova e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, l'augurio di una buona giornata, ancora grazie per l'attenzione. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.